Le 13 e un minuto. GR24, il sole 24 ore. Europa pronta a tassare le banche, la Merkel paghi chi ha provocato la crisi. Intercettazioni, Bossi da Fini, poi dice avanti solo con il sì del Colle. Israele allenta l'embargo a Gaza, ma resta il blocco navale. I mondiali, le grandi in crisi e il Sudafrica deluso, oggi tocca ancora Francia e Argentina. Ancora una buona giornata dalla redazione, una buona giornata da Anna Migliorati. L'Europa discute dunque di nuove regole e tagli per uscire dalla crisi. Il vertice dei capi di Stato e di Governo è nel vivo a Bruxelles, con ogni paese alle prese con i propri problemi. We have also discussed the need for reform of the financial market. In Europa vogliamo mercati finanziari aperti e competitivi, ma che siano responsabili e trasparenti. Sono state le parole questa mattina, lo sentite, del Presidente della Commissione europea, Manuel Barroso, e due sono le ipotesi di cui si discute in queste ore. Una tassa sulle banche, come vorrebbe la Germania, e le regole sul debito, che interessano invece molto di più l'Italia. Allora, partiamo andando subito a Bruxelles da Adriana Cerretelli, che saluto, buongiorno. Buongiorno. Allora, la svolta potrebbe davvero arrivare da questo vertice, Adriana? Ma dunque, almeno per le banche, diciamo. Come dire, definitive è difficile che arrivino, nel senso che siamo in pieno negoziato, sia sul fronte delle norme finanziarie, sia per quanto riguarda la nuova governance europea e il patto di stabilità. Però possono arrivare dei segnali, diciamo, decisivi per fare avanzare le riforme. E quindi in questo senso, se così sarà, sarà un segnale positivo dal punto di vista appunto della statura internazionale dell'Europa alla vigilia del vertice del G20 che c'è settimana prossima. Se l'Europa potrà presentarsi al G20 con una posizione unitaria, sicuramente, diciamo, la sua credibilità sarà più credibile. Risulterà aumentata. Sarà più credibile, certamente. Dicevamo, le ipotesi sono due: la Germania preme per colpire le banche, l'Italia è più interessata alle questioni del debito. Sì, direi di sì. L'Italia ha questa posizione che apparentemente sembra essere in qualche modo soddisfatta, nel senso che l'Italia dice va benissimo avere regole più stringenti, va benissimo includere anche il parametro del debito tra le regole più stringenti e quindi soggette a future sanzioni, però stiamo attenti a come si calcola il debito, nel senso che a Maastricht si è previsto di calcolare solo il debito pubblico. Secondo l'Italia invece bisognerebbe calcolare il debito in senso più largo, aggregato, includendo quindi anche debiti delle famiglie, delle variabili tipo debito privato e monte del risparmio privato. E quindi, ovviamente, perché essendo l'Italia risparmiosa, si può migliorare la stabilità di un paese, e apparentemente i mercati la misurano proprio in questo modo, tant'è vero che un paese come la Spagna, che ha un debito del 64% del PIL, quindi di poco superiore al vincolo di Maastricht, che è al 60%, viene attaccata dai mercati molto più e diversamente da un paese come l'Italia, che ha un debito al 118%. E ovviamente questi calcoli sarebbero molto più favorevoli per l'Italia, dove il risparmio delle famiglie è più alto. Staremo a vedere allora cosa ne uscirà da queste trattative. Grazie ad Adriana Cerretelli. E allora, proprio in Italia, veniamo ai conti italiani. Si discute della manovra finanziaria, il braccio di ferro è tra Stato e Regioni. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, è un cantiere in corso la manovra economica, con la maggioranza che getta acqua sul fuoco delle polemiche aprendo di fatto a modifiche al testo, a patto, come ha ricordato più volte Tremonti, che i saldi restino invariati. Da qui il pressing di tanti esponenti del centrodestra su regioni, giudici e medici già sul piede di guerra. In particolare oggi nel dibattito interviene il presidente del Senato Schifani, che dice il taglio della spesa improduttiva non è più rinviabile, ma i sacrifici pur necessari non possono intaccare le tutele fondamentali come quella della salute, che rappresentano sul piano della giustizia e dell'equità la difesa dei più deboli ed emarginati. Tutto da seguire anche il confronto tra governo ed enti locali. Bossi oggi spiega: le regioni hanno poco, bisognerà trovare la via per aiutare quelle più virtuose. Il presidente della regione Lombardia Formigoni intanto ribadisce: la manovra porta danni gravi ai nostri cittadini. Sentiamo le sue parole. Si vede che alle regioni viene chiesto il contributo di oltre il 50% di questi 25 miliardi. Se a questa oltre il 50% delle regioni si aggiunge poi il contributo chiesto ai comuni, alle province, si vede che lo Stato, il comparto centrale dello Stato, i ministeri, danno un contributo minimo. Cioè, in un momento difficile in cui il buon padre di famiglia chiama attorno a 6 figli e distribuisce equamente innanzitutto su se stesso e poi sui figli i sacrifici, qui abbiamo invece un padre che io ho chiamato un padre sciamannato, che prende un figlio solo, lo carica di una somma insopportabile, dà qualcosa anche agli altri figli e lui invece se ne va a spasso facendo spallucce. Formigoni al presidente della regione replica il ministro del welfare Sacconi, che chiede alle regioni uno sforzo in più di trovare di fatto le spese inutili che possono essere tagliate. Da Roma è tutto. E grazie a Vincenzo Miglietta. Più controlli sulle case del Vaticano è quanto chiede dopo lo scandalo appalti il Papa, e chiede il Cardinal Bertone, segretario di Stato. La stretta del Vaticano arriva dopo le dichiarazioni ai PM Perugini fatte dal capo della protezione civile Bertolaso. Ai magistrati Bertolaso avrebbe detto che fu il cardinale Crescenzio Sepe, a lungo al vertice di Propaganda Fide, a mettergli a disposizione l'appartamento di Via Giulia a Roma, quello su cui indagano i magistrati. Questo è quanto emerge dall'interrogatorio di Bertolaso martedì a Perugia. E intanto gli avvocati di Bertolaso hanno chiesto che venga fatta chiarezza sull'ennesima fuga di notizie. Si tiene oggi a Firenze la seconda udienza del processo per l'appalto della nuova scuola marescialli dei Carabinieri. Sarà un altro passaggio tecnico. Oggi i giudici dovrebbero solo sottoscrivere la trasmissione degli atti a Roma, che dovrebbe avvenire al massimo entro domani. Poi comunque si dovranno aspettare le motivazioni della sentenza della Cassazione, che arriveranno tra qualche settimana. Intanto sul rinnovo delle ordinanze di custodia cautelare dovrà pronunciarsi il Tribunale di Roma, compresa quella per l'imprenditore Francesco Maria De Vito Piscicelli, che ha i domiciliari. Piscicelli è l'imprenditore che rise la notte del terremoto in Abruzzo mentre pensava agli appalti per la ricostruzione post sisma. Intanto si delinea la mappa di contatti e favori messa in atto dalla Cricca. Nell'interrogatorio di martedì il capo della protezione civile Bertolaso avrebbe detto ai PM Perugini che fu il cardinale Sepe, allora responsabile di propaganda Fides, a metterlo in contatto con il professor Silvano. Silvano diede poi a Bertolaso un appartamento in via Giulia fino alla fine del 2003. A pagare l'affitto della casa sarebbe stato però l'architetto Angelo Zampolini, che gli inquirenti sospettano abbia riciclato denaro per Diego Anemone. Anemone, che nel 2008 aveva portato a casa 8 appalti, compresi quelli per il G8, aveva creato così un primo giro di favori, poi ricambiati. Bertolaso ha però dichiarato ai magistrati di non essersi mai occupato della gestione degli appalti, con la sola eccezione di quelli per il G8, che doveva tenersi alla Maddalena. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E questa mattina vertice tra Fini e Bossi, il tema il disegno di legge sulle intercettazioni. Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Confronto serrato nella maggioranza sui tempi di discussione del DDL intercettazioni e sulle eventuali modifiche. Questa mattina, lungo colloquio tra il Presidente della Camera e il leader della Lega, si può andare avanti solo se c'è l'intesa con il Colle, anche perché se Napolitano non firma siamo fregati. Questo il commento di Bossi, che dopo le aperture di ieri oggi invita al dialogo e alla ricerca di un compromesso. E anche dallo stesso vertice del PDL di ieri pomeriggio erano arrivate aperture su eventuali modifiche al testo e sull'opportunità di dare priorità alla manovra, che potrebbe significare uno slittamento dei tempi. In realtà si fa sempre più strada l'ipotesi del voto a settembre, ipotesi che accorcerebbe di fatto le distanze con i finiani. La preoccupazione che l'attuale testo sulle intercettazioni possa incontrare la contrarietà del Quirinale è dunque condivisa da molti nella maggioranza, e anche lo stesso Berlusconi ieri all'assemblea di Confcommercio aveva detto che bisogna tener conto dell'eventualità di un rinvio. Nel pomeriggio parte l'esame del DDL in Commissione Giustizia della Camera, presieduta dalla finiana Giulia Bongiorno, e qualcosa di più sul futuro del provvedimento in quanto a tempi e modifiche si dovrebbe capire. Da Montecitorio per ora è tutto, a voi la linea. Grazie, naturalmente continueremo ad aggiornarvi nel corso della giornata. Intanto intervengono nella discussione anche le 150 società a cui lo Stato appalta le intercettazioni. Le persone intercettate, dicono, sono 26.000 per un totale di 1.300.000 persone ascoltate, non di più. Ma denunciano anche, aspettiamo dallo Stato, di essere pagate per un credito di quasi 500 milioni di euro. Elio Cattaneo, amministratore di una di queste società, la Io al microfono di Roberto Bonaldi. Le procure della Repubblica, parliamo dei magistrati, possono pagare solo nella misura in cui agli stessi vengono dati i fondi. Però i 500 milioni sono riferiti a debiti pregressi dall'anno 2003 all'anno 2010. Stiamo lavorando anche col Ministero, le nostre richieste sono quasi giornaliere, però dipende anche dai soldi che il Ministero del Tesoro stanzia in forma straordinaria per saldare parte di questo debito, perché parte per definizione rimarrà sempre fuori perché è un debito revolving. L'importante è che il debito non sia superiore al fatturato dell'azienda stessa. C'è una notizia dell'ultima ora. In Italia c'è il primo donatore samaritano di organi. È un detenuto di una casa circondariale piemontese, ha chiesto di poter diventare un donatore samaritano, cioè senza legami di parentela o di affetto, offrendo un rene a chi ne abbia bisogno. Il caso è il primo del genere in Italia e, così apprendiamo in questi istanti, è già stato posto all'attenzione del Centro Nazionale Trapianti. Andiamo in Sudafrica, oggi tocca ad Argentina e Francia, gli uomini di Maradona alle 13.30 sfidano la Corea del Sud, in serata la Francia affronta il Messico, in campo alle 16 anche Grecia e Nigeria, grande delusione in Spagna ieri per la sconfitta con la Svizzera, ma anche in Sudafrica per il crollo della squadra di casa. Restano senza fiato le vuvuzelas. Il 3-0 rimediato a Pretoria dall'Uruguay riduce al minimo le speranze di qualificazione dei Bafana Bafana al secondo turno. Serve l'impresa contro la Francia che oggi affronta il Messico e potrebbe non bastare. Per la prima volta così il paese organizzatore rischia di non arrivare al secondo turno della Coppa del Mondo. Dall'entusiasmo per il pareggio all'esordio con i messicani, il Sudafrica del calcio è passato alla disillusione. Qualcuno ancora ci crede, ma il pessimismo prevale. It's terrible. They played bad. Bad. Our performance was terrible. My spirits are still high. We're hoping for the France game. But I don't think anything will change. Everybody's still excited that the World Cup is here. I'm really disappointed. I was hoping our country could make it through to the next round. Our chances are looking bad. Come consolarsi? Facendo il tifo per le altre squadre africane, suggerisce questo tifoso dei Bafana Bafana. Nigeria is there, Cameroon is there, yeah, we're gonna support the African teams. L'unico modo forse per ridare fiato alle vuvuzelas. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore, Johannesburg. Le 13:17 minuti, le notizie di oggi di GR24, l'Europa pronta a tassare le banche, la Merkel al vertice europeo dice paghi chi ha provocato la crisi, l'Italia punta a una revisione del calcolo del debito. La manovra in Italia a braccio di ferro con le regioni e la Lega rilancia, si aiutino le più virtuose. Intercettazioni, boss incontra Fini, poi dice avanti solo con il sì del Colle. I mondiali, le grandi in crisi e il Sudafrica deluso, oggi tocca ancora a Francia e Argentina. E riprendiamo andando in Medio Oriente. Il gabinetto di sicurezza israeliano si è riunito nuovamente questa mattina per discutere dell'alleggerimento del blocco imposto da 4 anni alla striscia di Gaza. La Freedom Flotilla non è riuscita ad attraccare a Gaza, ma la missione degli attivisti filo-palestinesi può comunque dirsi riuscita, almeno in parte. Israele ha infatti annunciato oggi che allenterà l'embargo contro l'enclave controllata da Hamas, permettendo l'ingresso di un certo numero di merci vietate dal 2007. E non si tratta solo di far entrare nella striscia merci prima sottoposte a restrizioni, ma anche di aumentare il flusso di prodotti controllati pur mantenendo le attuali misure di sicurezza per evitare che, oltre agli aiuti per la popolazione, Hamas riceva anche armi. I beni passeranno dal valico di Rafah, al confine tra Gaza e Egitto, riaperto dal Cairo dopo il tragico blitz israeliano contro la nave turca Mavi Marmara. Del resto Netanyahu lo aveva preannunciato già da giorni. Stiamo studiando soluzioni per migliorare la qualità della vita dei palestinesi di Gaza, aveva detto il premier, ma al contempo garantire la sicurezza di Israele. Bibi ha negato ripetutamente che l'agenda del suo governo sia stata influenzata dall'impresa della flottiglia, o meglio delle flottiglie, visto che altre navi dal Libano, dall'Iran e forse dall'Europa sono attese più più o meno a breve, ma la tempistica è piuttosto indicativa ed è certo innegabile che gli appelli contro il blocco, moltiplicatesi in queste settimane e provenienti da mezzo mondo, Italia compresa, abbiano avuto un certo peso nella decisione di Tel Aviv. Virginia Di Marco, GR24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme. Ancora vittime per il maltempo in Francia. Almeno 20 persone hanno perso la vita in seguito alle piogge torrenziali che hanno colpito il dipartimento della Var nel sud-est della Francia. Questo bilancio è però del tutto provvisorio perché all'appello mancano ancora 7 persone che risultano disperse. E mentre le autorità hanno annunciato questa mattina la fine delle operazioni di soccorso, gli abitanti dell'area colpita provano a riorganizzare il loro quotidiano. Al momento però 80.000 abitazioni sono ancora prive di elettricità e la situazione dei trasporti resta particolarmente difficile. La linea ferroviaria Nizza-Tolone è ancora bloccata e sono tuttora impraticabili diverse strade secondarie. E dopo aver sorvolato l'area sinistrata, il ministro francese dell'interno, Brice Hortefeux, ha sbloccato 1 milione di euro di crediti di urgenza, annunciando che verrà decretato lo stato di catastrofe naturale. Igor Fiatti, GR24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Piogge temporali anche in Italia, come avete sentito anche poco fa nelle nostre notizie sulla viabilità. La situazione comunque è in miglioramento, c'erano timori per il Po, ma il livello del fiume sta tornando sotto controllo. Un barcone con alcune decine di migranti ha lanciato l'SOS ieri notte con un telefono satellitare mentre era in navigazione nel canale di Sicilia. La segnalazione è stata fatta dai parenti di alcuni immigrati sulla imbarcazione residenti in Italia che hanno ricevuto le telefonate con la richiesta di soccorso. La Guardia Costiera ha inviato una motovedetta e un elicottero che hanno perlustrato un'ampia zona di mare, per il momento senza esito. E una ricerca del Censis racconta per gli stranieri che arrivano in Italia non è più tempo di sogni. Chiara Di Michele. Sì, buongiorno. I numeri degli immigrati in Italia ricalcano quelli del resto della popolazione, si replicano le anomalie nostrane come quella del lavoro nero. Il 32% degli stranieri intervistati ha sperimentato forme di lavoro irregolare e 3 su 10 guadagnano meno di 800 euro al mese. Tuttavia la maggioranza degli immigrati, il 77%, ha un lavoro regolare e 1 su 2 è a tempo indeterminato. La metà di loro guadagna tra gli 800 e 1200 euro al mese, ma l'Italia immobile ridimensiona il sogno degli immigrati. Nella maggior parte dei casi si tratta, infatti spiegano, di una mobilità orizzontale, ossia i cambiamenti di lavoro non determinano una modifica sostanziale della loro posizione sociale, anzi talvolta addirittura provocano un peggioramento della propria condizione lavorativa. Inoltre, a fronte di un livello di scolarizzazione molto simile a quello degli italiani, gli stranieri hanno grandi difficoltà nell'entrare nel mondo del lavoro intellettuale. Da Roma è tutto, restituisco linea allo studio. Grazie a Chiara Di Michele. Andiamo negli Stati Uniti, dove si è ancora alle prese con la marea nera. La BP si impegna a pagare il conto e dopo l'annuncio di ieri, oggi risale in borsa. La somma assicurata ieri al presidente Obama è considerevole, 20 miliardi di dollari, ma sempre meglio che vivere nell'incertezza. Almeno così decretano i mercati. Infatti oggi, dopo tante perdite, BP è tornata a crescere, arrivando a sfiorare il più 10%. E tutto dopo aver annunciato la decisione di destinare una montagna del proprio denaro per ripagare i danni del disastro ambientale nel Golfo del Messico, cancellando i dividendi agli azionisti. E per di più impegnandosi ad accantonare 100 milioni di dollari per soccorrere finanziariamente i lavoratori dell'industria petrolifera rimasti disoccupati a causa dell'incidente. L'ultimo sistema messo a punto per fermare la perdita del greggio intanto sembra reggere, ma questo non esimerà l'amministratore delegato di BP, Tony Hayward, dal presentarsi oggi alla Camera dei rappresentanti americani per dare una spiegazione su quanto accaduto. Secondo le indiscrezioni sul suo discorso, però, Hayward non fornirà ancora nessuna indicazione definitiva sulle responsabilità. Laura Bettini, GR24 e Sole 24 Ore. Un italiano che lavorava come manager in un albergo è stato ucciso. ucciso a Makati City, nell'area metropolitana di Manila, nelle Filippine. I mezzi di informazione locale hanno riferito questa mattina che Sergio Mazza, 38 anni, è stato assassinato con un colpo d'arma da fuoco alla testa mentre camminava su un affollato marciapiede. Era direttore della sezione cibo e bevande di un lussuoso hotel. Stava andando al lavoro quando un uomo lo ha avvicinato e gli ha aperto il fuoco senza preavviso. La Farnesina ha confermato la notizia, le indagini sono in corso, ma per ora il movente del delitto è definito misterioso. Ieri la decisione del Parlamento europeo di introdurre l'obbligo di indicare il profilo nutrizionale sulle etichette dei prodotti alimentari. E in Italia oggi è discussione perché la decisione ha allarmato i molti estimatori di uno dei prodotti più amati dagli italiani. Se dico Nutella, lei cosa dice? Sarebbe senza Nutella. Un mondo senza Nutella è certo un'ipotesi lontana, ma in futuro potremmo non vedere più spot televisivi della nota crema spalmabile con slogan nutrizionali e salutistici. Questo perché la Nutella, nata nel 1964 dalla fantasia del pasticcere Pietro Ferrero, contiene più di 10 grammi di grassi ogni 100 di prodotto. La casa produttrice è preoccupata. Ci faranno scrivere come sulle sigarette, attenti, è pericolosa, favorisce l'obesità, hanno detto alla Ferrero. In realtà l'obiettivo del Parlamento europeo è quello di aiutare i consumatori a confrontare le diverse offerte di alimenti presenti sul mercato. Perciò ieri ha votato a favore della proposta della Commissione di introdurre l'obbligo di indicare sulle etichette dei prodotti le quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale. Esentati invece gli alcolici, ad eccezione dei cosiddetti alcohol pops, bibite aromatizzate pensate per un pubblico giovanile, che devono essere chiaramente separati dalle bevande rinfrescanti nei punti vendita. Matteo Finco, GR24, Il Sole 24 Ore. Un aggiornamento sulla notizia che vi abbiamo dato come ultima ora. Ricordiamo, un detenuto di una casa circondariale piemontese ha chiesto di poter diventare un donatore samaritano, cioè senza un legame di parentela o di affetto, offrendo il rene. Il caso è il primo del genere in Italia. Il Centro Nazionale Trapianti ha annunciato che si riunirà per definire la questione etica. L'organismo, infatti, sulla base della segnalazione arrivata nei giorni scorsi, e in discussione anche una riunione che comincerà tra poco, ha avviato una nuova riflessione a causa della delicata questione etica posta dalla nuova offerta, dice il Centro Nazionale Trapianti. Al momento, infatti, le persone che in Italia si sono candidate a diventare donatori samaritani sono state meno di una decina. Da tutti è arrivata l'offerta di un rene, ma la novità in questo caso, dicevamo, è che si tratta di un detenuto. Un servizio fotografico li ritrae insieme, lo spregiudicato re dei paparazzi Fabrizio Corona e Pietro Maso, ricorderete, tristemente famoso per aver massacrato i suoi genitori quasi 20 anni fa. Subito le polemiche e anche qualche interrogativo. Attrazioni fatali, quella tra due personaggi della cronaca e quella degli italiani per i personaggi della cronaca peggiore. Novella 2000 ha fotografato insieme Fabrizio Corona, che resta alle prese con le sue disavventure giudiziarie, e Pietro Maso, ora in semilibertà, ma che presto potrebbe tornare libero. A quel punto lui vorrebbe sposarsi ed è proprio l'esclusiva del servizio delle nozze quella che vorrebbe aggiudicarsi Corona. Non comprerei mai quelle foto, dice il direttore di Novella 2000, Candida Morvillo, che ha pubblicato il servizio dell'incontro. Un conto è documentare che questo signore se ne va in giro in semilibertà, incontra Fabrizio Corona e anche ironizzare su questa strana coppia. Un altro è pensare seriamente di fare avere dei soldi a questo ragazzo. Ma perché questi due personaggi piacciono così tanto? L'aberrazione di Pietro Maso è questa curiosità che ha a che fare con il rapporto ambivalente che tanti hanno con i genitori, nel suo caso sfociato, diciamo, nella tragedia e nell'orrore, però c'è un lato oscuro che comunque fa sì che tante persone gli scrivino, appunto, abbia dei fan, per quanto possa sembrare terribile. Corona attira perché è l'uomo, il ragazzo che vive al di fuori delle regole, riesce a divertirsi e ad arricchirsi con questo, e quindi è, insomma, qualcosa di molto più lieve, di molto più allegro, e però il fatto che si incontrino è curioso. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione, Fabio Cantadori in regia, ancora un saluto da Anna Migliorati, le 13:28, c'è Italia in controluce, GR24 torna con voi alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.